applausi, chi c'è? Suo padre, mio nonno era così, all'età sua, però grazie a Dio c'ha 90 anni. la mia ne ha 90 e 91 li compie a maggio, quindi siamo lì, capito? E purtroppo è così quando hai bisogno di una presenza 24 su 24, ti devi avvalere di queste strutture, se no pagarti anche la gente che ti fa il turno di notte eccetera ti costa di più, perché già avevo una badante che ci andava di giorno, poi ce ne andavano altre due, poi mia moglie ha trovato questa per fare le notti, 50 euro a notte. Ho detto così non esci più, ho detto fai prima pagare la retta di una struttura e così l'ha sistemata, capito? Cioè, mi sono rientrati adesso, e cosa vuoi fare? Adesso lavoro tutto bene? Sì, io lavoro tutto bene, domani mattina ho un impegno, poi rientro domani intorno alle 14, dalle 14 sino alle 22. Aspetta un attimo che saluto, sono arrivati 5 secondi. Non ti preoccupare, fai con calma, tanto sono qua in ascolto. Eccomi qua, no. C'è sempre un odore di gas giù nell'ingresso delle scale, toccherà chiamare Medea, come si chiama adesso? Gaxa. Sì, esatto. E cosa hanno toccato, perché? Ma niente, io ho guardato la mia caldaia, addirittura era spenta. L'odore, io c'ero nel terrazzo, è anche chiuso, dentro un terrazzo l'odore non ce n'è di gas. Ho seguito un po' le tubature esterne, i contatturi, l'odore non ce n'è. Poi a questo gas, io lo stesso, mi si è rotta la caldaietta quasi, anzi un mese fa, esatto, e ancora sono così. Ho messo uno scaldabagno normale, elettrico, però è piccolino, capito? Quindi noi siamo in quattro in casa e non è che ci basta. Ieri ho chiamato il tipo dell'assistenza tecnica che era venuto e dice la caldaia va sostituita perché si è rotta, e dice ma la causa è la durezza dell'acqua. Ascolti, ho detto, noi abbiamo l'acqua del pozzo, facciamo le analisi chimiche e organolettiche dell'acqua, e ho detto ed è meno dura di quella dell'acquedotto. Ho detto, io ho le analisi alla mano, ho detto, lei poi mi dimostri il contrario. Ho detto, quindi queste soluzioni perché non la volevano cambiare, perché mancava circa un mese alla scadenza della garanzia. Alla fine l'ha cambiata, cioè mi ha detto che ha fatto tutta la pratica, questa caldaia non me la sostituiscono mai, capito? E allora ieri gli ho chiamato e gli ho detto, guardi, io mi sono lamentato direttamente con Ariston Italia, l'assistenza tecnica, ho mandato una mail dicendo che noi in casa siamo in quattro, non si può lasciare una famiglia di quattro persone, così ho detto senza... E lui mi ha risposto poi questo dell'assistenza di Sassari, che praticamente l'Ariston sta ritardando le consegne perché mancano certe parti di schede elettroniche, che con la questione Covid sta arrivando tutto in ritardo, mancano pezzi e quindi la produzione va a rilento e non hanno una caldaia. Ho detto, a me mi sembra un po' una stronzata. Allora gli ho detto che sarei ricorso alle vie legali comunque, perché non è possibile attendere così tanto, no, per il cambio. E lui allora mi ha detto che lunedì viene, mi mette una caldaia sostitutiva in attesa che arrivi l'altro. Ho detto, vabbè, così al limite iniziamo a ragionare. Certo, almeno non rimanete senza acqua calda. No, io quando da mia madre, uno scaldabagno era da cambiare, perdeva. Ti ricordi dov'è la garanzia? Mi sembra che mancavano pochi giorni alla scadenza. L'avevo preso da Bricomen. Sono andato in un attimo, ho preso lo scaldabagno nuovo e me l'hanno dato subito, all'istante. Capito, io questa era una caldaietta a gas che avevo preso da Mara, capito, dell'Ariston. Oltretutto è cambiata l'assistenza tecnica, perché prima la faceva un'altra persona, poi hanno cambiato, ma questo per carità, già per chiamarlo quando mi si è rotta ho dovuto fare almeno 6-7 chiamate prima che venisse, poi è venuto quando io non c'ero, c'era mio figlio, capito, e questo alla fine sì, si è fatto le fotografie della garanzia, ho detto spero che abbia inoltrato tutto, però ovviamente mio figlio dice no, mi ha detto non mi ha rilasciato niente, nessun foglio di intervento, nulla, quindi il mio sospetto è questo, ho detto l'avrà fatta la richiesta oppure ha visto che mancava poco e ha fatto l'ognordi, e adesso vediamo cosa succede. Bisogna un po' minacciarle queste qua. Io invece un'altra volta mi hanno fregato, perché avevo preso uno scaldabagno, adesso non voglio sbagliare, forse Fais, non mi ricordo, una marca del genere. Anche quello, siccome io non lo usavo perché avevo l'impianto col gas di città, però era lì a disposizione, in caso di guasto l'avrei usato. Si è bucato anche senza usarlo ed era in garanzia perché avevo preso un 10 anni. Beh, mi hanno detto che la ditta era fallita, che non c'era più, aveva cambiato nome, che poi leggendo la ditta che, diciamo che la nuova c'era da collare anche le garanzie dei vecchi scaldabagni, poi ho lasciato perdere perché alla fine non mi serviva, l'ho eliminato e basta. A volte ti prendono per sfinimento e fai prima lasciar perdere, ma loro già ci guadagnano sempre, maledizione. Sì, alla fine poi se io avessi denunciato, lo scaldabagno me l'avrebbero pagato nuovo, perché la ditta che è subentrata si doveva collare anche le garanzie dei vecchi, della vecchia marca, con la marca Fais, sto dicendo Fais, ma però mi ricordo così. Sì, sì, ho capito, evidentemente se hanno l'azienda che ha chiuso, magari l'ha presa un altro e quindi sì, si accollano tutto, ho capito, anche la garanzia del vecchio marchio. Sì, quello lo so che funziona così. Il problema è che questi fanno i furbi, perché se io lascio perdere, magari lui ha fatto la richiesta, non lo cerco più, a dire questo si è aggiustato, non mi cerca, io me la tengo. E magari io prendo, mi stufo, prendo, cambio caldaia, cambio marca e mi arrangio per conto mio, capito, ci perdo perché ho pagato una caldaietta 630 euro, capito, e mi è durata meno di 2 anni. Il problema è che le fanno male adesso, perché l'altra che ho avuto sempre dell'Ariston mi era durata 5 anni, dopo si è bucata dopo 5 anni, ma in casa siamo in 4 persone, quindi la usiamo, capito, ci sta che dopo 4, 5 anni, 6 anni si buchi, ma non dopo meno di 2 anni, capito? Sì. No, io la mia è della Ferroli, però è sia caldaia che acqua calda, dai. E grazie a Dio ce l'ho una 30 anni. Oh mio, ho cambiato da poco che cosa? Un condensatore, praticamente, forse ne abbiamo anche parlato. Non circolava l'acqua, quindi la pompa del circolatore non girava perché si era scaricato il condensatore. Ho cambiato quello, non me l'ha fatto neanche pagare. La caldaia sta di nuovo andando, facciamo gli scongiuri. Poi a proposito di scaldacqua, credo che i migliori siano quelli della Rinnai, non so se li conosci. Sì, me l'hanno detto che quelli sono ottimi. Chi faceva l'assistenza Ariston, io l'ho contattato, no, per venire, mi ha detto no, non ce l'ho più io, l'Ariston l'ho lasciata. Ti consiglio, se cambi marca, di prendere questa che mi stai dicendo tu, la Rinnai, che dice che sono ottime caldaie, durano e insomma, e anche l'assistenza è buona, capito? Sì, adesso io ho qualche collega che ce l'ha, è contentissimo. Sia il flusso dell'acqua è sempre costante, la temperatura è sempre uguale, non c'è sbalzi termici, capito? Vabbè, ormai sono tutte elettroniche. E anche questa che mi si è rotta era così, cioè temperatura costante, acqua quanta ne vuoi. Il problema è che si è bucata e l'acqua praticamente è scesa, ha intaccato l'impianto elettrico e ha bruciato la scheda elettronica. Quindi tra come si chiama, lo sdoppiatore che c'è in alto e tutta la parte elettronica rovinata, era irreparabile il danno. Quindi quando è così loro la cambiano perché non si può aggiustare. Se dovessi cambiare marca, capito, quando mi danno questa con la garanzia, mi auguro che mi duri il più possibile, ma se, quando dovrò cambiare caldaia, mi prendo queste qua della Rinnai, che sono ottime, mi hanno detto. Ma fino adesso, per quello che ne sento in giro parlare, dovrebbe essere la numero uno, diciamo la Rolls Royce del scaldacqua. Sì, ho capito, anch'io ne ho sentito parlare molto bene, capito, anche di altre persone che l'hanno presa questa caldaia. Eh sì, e farò così, adesso spero che lunedì venga, questo qui mi metta una caldaia sostitutiva, dice io ne ho una in questi casi di emergenza, se lei me l'avesse detto, ma io non pensavo di aspettare un mese, ho detto, io aspetto, e tu mi hai detto 10 giorni, dopo 10 giorni non ti fai sentire, ti chiamo e non mi rispondi, dopo tanto mi rispondi e mi dici c'ho un pacco che mi deve arrivare col corriere Bartolini, forse la sua caldaia, tanto non sta aspettando altro. Fine settimana, inizi dell'altra me lo consegnano, aspetto, dice no, no, era un pezzo di ricambio, come? Prima mi dici che non aspettavi niente, poi mi dici che era un pezzo di ricambio, a che gioco stiamo giocando? E fatto sta che passano così le settimane, un mese, tu non ti rendi conto, stai un po' col disagio, l'acqua che si raffredda, perché lo scaldabagno è di quelli d'emergenza, piccolini, capite, non ti dura, ti lavi la testa e poi non ti puoi fare la doccia, oppure ti fai la doccia e poi devi aspettare che scaldi per lavarti la testa, capito? Un sacco di disagi. Se non viene lunedì mi attacco di nuovo al telefono, viene accanto altre 4. E come dici tu, ci provano. Se uno alla fine si rompe le scatole, si arrangia, tanto riguadagnato per l'azienda. Prima che ce l'aveva l'Arison, come si chiama? L'Adu? No. Oh, quello che faceva l'assistenza si chiama Marco Bidau e aveva l'assistenza solo delle caldaie Ariston, capito? Non di altre macchine Ariston, capito? Solo assistenza delle caldaie Ariston. Adesso ce l'ha questo Marras, capito? Penso da un annetto. Sì, diciamo, Ariston, io ho solo un dehumidificatore, un portatile, che ogni tanto quando vedo che c'è troppa umidità in casa, specialmente in inverno, lo collego e me la abbassa subito. Ma magari usato così saltuariamente quelle cose lì ti durano parecchio, ho capito. Il problema delle caldaiette che lavorano tutti i giorni, capito? Soprattutto la mattina, il fine settimana, che quando hai figli che si fanno le docce perché devono uscire, quindi diciamo che già lavorano parecchio, quindi per quello che si rovinano. Ma se usano materiali buoni, se il corpo diciamo dove batte la fiamma lo fai, non so, rame buono o acciaio, sono due le fesserie. Non si buca, capito? Lì a volte usano materiali un po' scadenti, qui addirittura l'impianto elettrico sotto la dove batte la fiamma, logico che se perde si brucia la scheda, metterla in alto, un punto asciutto. Sicuramente usano, diciamo, materiali non eccezionali per la costruzione di questi elettrodomestici, perché in passato duravano di più. Io non mi spiego perché durano 2 anni, 3 anni massimo e poi si rovinano. Adesso sono tutti così, e dai grandi elettrodomestici come i frigoriferi, lavastoviglie. Pensa che noi avevamo una lavatrice che ci è durata 22 anni, da quando ci siamo sposati non si era mai rovinata, poi si è rotta, l'abbiamo cambiata. Lavatrice, lavastoviglie idem, la lavatrice 22 anni, la lavastoviglie ancora di più, ed era sempre dell'Ariston, addirittura mi si erano rotte le manopole, le ho trovate su internet, le ho cambiate, funzionava perfettamente, poi alla fine si è bruciato il motore, capito? E l'abbiamo sostituita. Però dico io, perché in passato queste cose duravano oltre 20 anni, adesso dopo i 5 anni si sfasciano? Questo che non riesco a capire. Io non so se sia vero, ma qualcuno mi ha detto che addirittura nella scheda elettronica praticamente il guasto è già programmato, cioè dopo 8 anni non funziona più, poi tu vai a cercare la scheda e non la trovi più, perché ormai i modelli sono andati avanti, perché anch'io ho avuto problemi con la lavatoviglie e la scheda non c'era più. Ho provato anche su internet, ma alla fine l'ho cambiata e basta. E anch'io avevo visto qualcosa in TV, un programma che parlava proprio su di queste cose, e dicevano così che nella scheda, diciamo, che comanda l'apparecchiatura, praticamente loro mettono un chip che dura un certo ciclo di volte, dopodiché va in blocco e rovina tutto quanto. Quindi o trovi la scheda nuova, capito, però dopo 5 anni, come hai detto tu, non la trovi più e devi cambiare tutto quanto, è una fregatura praticamente. E ormai è una tattica per muovere il mercato, qui ti costringono a cambiarla e basta. Ormai il mondo è pieno di elettrodomestici nuovi esteticamente, però non funzionano da buttare, quindi stiamo riempiendo il mondo di immondezza. Infatti. infatti si dovrebbero fare un pochettino l'esame di coscienza, no? Perché io dico una cosa, se c'è la possibilità di farli durare di più gli elettrodomestici, dalla questa possibilità, così si inquina anche di meno, invece così andiamo allo sfascio totale, capito? Sì, perché ormai per un'azienda non conviene più avere assistenza a cambiare tecnici, l'azienda conviene più il prodotto nuovo. Guarda, alla fine una scheda ti costa, non so, 150 euro, ne aggiungi un'altra 150 e te la prendi nuova. Esatto, esatto. Ma speriamo bene, speriamo bene. Ascolta, la mia radio come sta uscendo? Sempre bene? Sempre chiarissima, segnalone sempre buono. Sì, perché i giorni scorsi ha fatto un po' di vento, quindi l'antenna l'avevo cambiata, quindi ho detto speriamo che rimanga tutto là, però già sembra tutto a posto, capito? Gli ho dato uno sguardo laggiù ed è sempre là, dritta, speriamo ci duri a lungo. Quindi si è comportata bene anche col vento, l'hai collaudata? Sì, proprio i giorni del vento forte ho guardato e praticamente i primi 5 metri non si muovono nemmeno, perché vanno in parallelo i due tubi che salgono, invece poi quello più lungo, il tratto finale, flette solo quello lì un pochettino, ma non più di tanto. Considera che non ho messo né tiranti, niente, solo ben agganciata al palo di sostegno, capito? Però già mi sembra bella stabile, nonostante l'altezza. Io non l'ho mai vista, quindi dal vivo, l'ho solo vista in qualche video, qualche foto. Però come dire, come ne parlava Claudio, è una signora antenna ben costruita, dai. Sì, sì, ma poi esce anche bene, ho fatto qualche DX pure, Germania, tutto il nord Europa, Belgio, ho sentito la Francia, qualche giorno che c'era un pochettino di propagazione, anche oggi c'era qualcosina, sentivo negli altri canali, però poca roba. Io qualcosa ho sentito anch'io qualche giorno fa, perché ogni tanto accendevo, ma almeno per togliere un po' di umidità, no? Anche se non potevo parlare, però accendevo, lasciavo per un po' di tempo accese le apparecchiature, e un minimo di propagazione l'ho sentita, però non ho fatto chiamata, però poca roba, il livello di 1-2 di segnale, anche perché la mia antenna, come sai, non è sul tetto, quindi sono un po' quelli penalizzato, dai. Sì, purtroppo se non ce l'hai molto in alto, diciamo che quello ti penalizza. Eia. Va bene, io adesso mi metto a fare qualcosina e rimango ancora in ascolto. Ti saluto, Fra, e poi nel caso ci sentiamo più tardi, perché mi voglio sbrigare delle cosette qua col computer. No, io tra un po' mangio un po' presto, perché poi devo lavorare, mi tocca anche stanotte, quindi ti saluto anch'io. Dai, un abbraccio, stammi bene e alle prossime, ok? Ciao, ciao. Oh, ciao, a che ora entri stanotte? Tardi o prestino? Praticamente, come finiscono i treni di Sassari Alghero, noi entriamo con dei macchinari, circoliamo a linea impedita, capito? Quando non c'è circolazione dei treni. Quindi loro più o meno si ricoverano verso le 10, 10 meno 20, e poi entriamo noi. Ho capito, buon lavoro, allora già ci sentiamo alle prossime, comunque sono qua in ascolto in caso di, se hai bisogno di qualcosa, controlli eccetera, già sono qua. Ciao, grazie della chiacchierata, alle prossime. Sì capo, ma per adesso sembra tutto regolare qua, le lancette sono tutte ferme, sembra che stia andando tutto bene, dai, ripeto, tocchiamo ferro, di nuovo, alla prossima, ciao ciao. Ciao, alla prossima, ciao ciao. Ciao Gian, come sto uscendo? Chi è? Io già mi sento. Ehi, senti, sentici. E tu mi senti? Ehi, tu! Non c'è nessuno stasera, ho provato a accendere verso le 6, non verrà nessuno. Io sono uscito, là, sono andato a trovare degli amici, abbiamo una birretta. Ah, sei a posto adesso. Come? Ho detto sei a posto allora. Perché sono a posto? Perché ho bevuto. Scherzo. Sto organizzando... Ma vedi che sta aprendo un pizzeravo? Un blurino. Cos'è che sto applicando? Mi sta caricando strada, ecco. Prima mi stava caricando, stavo pratico. Cos'è che stiamo organizzando? Ah, ma fai me. Ma dovete organizzare la pizzata, boh, non so che cosa. No, non ce la faccio a mangiarla già. Già andateci. Non ce la faccio a mangiarla, c'ho i punti. Ah, ho capito. E quando io ci sono al dentista? No, devo andare la prossima settimana, è 24. E ti togli i punti 24. Esatto. Capra, capra. E là sei quasi in direzione d'arrivo, eh? Sì, più o meno sì. Mezzo gai, dopo farai il sorriso d'Urbans. Mi interessa magna. Eh vabbè, senza detti non digerisci manco bene, tutto insieme, capito? Perché non mastichi bene. E la digestione è più lenta. Non lo so. Vabbè, fatto un fatto, non invece di lui. Ma è una macchina, Non capisco, scusa, già. Ho detto, fatto un fatto, non ci pensi più. Ho detto, ricordati che c'è una macchina dentro la bocca. Una macchina dentro la bocca? E io e Alu. Costa quanto una macchina a farsi denti, quello ti ho detto praticamente. Lo so. Adesso la compravo loro a posto mio. Capa, con 10.000 euro ti esce una macchina. Non grande, ma già ti esce. Ci ha fatto una bella macchinetta. C'era una Ford Fiesta, modello nuovo, là. Se non mi ricordo, 4.500 o 5.500. Pochi chilometri. Come sai che è 1.300 o 1.400 diesel? E te la vuoi prendere? Come facciamo a prenderla? Magari. Ma c'è la Dacia che costa quel tanto di 7.000 euro e prende una macchina nuova e c'è il motore Renault. Gappa. Vabbè. Già, per il momento già va bene così, dai. Ehi, infatti. E infatti tu puoi fare anche il meno, là. Poi piano piano, se ti esce qualche occasione. Io l'avevo lavorata una cazzata, se dovuto fare solo cose di proprietà praticamente. Vabbè. Per il momento la fortuna non c'è, poi se chissà, magari. Qualcosa cambierà. Già arriva il lavoro, piano piano. Se questi guasti si mettono d'accordo, questi russi con gli americani, con l'Ucraina, con tutti i gatti, magari qualche cosa esce fuori, se no va a finire che tiriamo tutti a carta sfascia. Lo so, ma tu ora sei a casa già, devi uscire? No, non devo uscire, dopo esco a portare il cane, ma non è che non voglia oggi di uscire. Ero al telefono, stavo cantando, si va adesso, si va poco fa, là. Oh, ma qui su, non la giocare. Prima lo vazio, prima, ma no. Ma cacca d'occhio lo stesso, poca roba, niente, quasi niente. Mi ha preso male a me, se non faccio qualche calzone non so stare. Almeno due o tre me le devo fare. Ma a me piace, poi ho un'amica che praticamente c'ha il karaoke, capito? Sì, ma chi ti vede in diretta? Molta gente ti vede. Tutti ti vedono, quando tu metti la telecamera ti vedono tutti. Sì, ma anche loro sono in cam. No, non c'è bisogno, perché tu poi registri la canzone, la mandi e loro aprono la tua canzone e ti vedono, capito? Ah, ho capito. Aggiugavito, vabbè. Ma io l'ho disattivato perché avevo un po' di notifiche. C'è un programma. Allora, lascia vedere qua un attimino, aspetta. Questo vuol dire che è perché? Aspetta, la trovo, te ne mando una che ho fatto, dedicata a te. A me? Chi che bello? Andiamo bene. su WhatsApp un attimo? Te l'ho mandato. Ma sto ascoltando? Volevo scaricare questo Star Messenger, canta la karaoke. Aspetta, posso scaricare quello? E dove c'è Star Maker, sì? Devi scaricare quella canzone. Si chiama Star Maker. Star Maker, come c'è scritto? Dico lui sì, io gioco di Maker, non Maker. Sì, vabbè, io dico come c'è scritto, io lo so in inglese. Che cartoneggia? Guarda che è una sorpresa. Non ce la fai a più. Con i due siamo. Ah. Fallo andare tutta. Praticamente verso le discoteche. Proprio. Non l'hai ascoltata? Sì. Bene. Vai. Purtroppo me la facevo sentire senza installare niente. Va. Ci sono io, lo secondo sono io. Che regala, e te se la manda a Luca. La giocata malissimo, mi fa mandarla a te. Ogni tanto mi diretto. Ma te lo descrivi su Star Maker? No, già, aspetta. Non ho capito già. Ho detto, perché non ti iscrivi su Star Maker? Oh, io non vedo i programmi, c'ho TikTok, c'ho questo... come si chiama? Ma aspetta. Questo Bigo Live. E ne ho fatte parecchie, ne ho un bel di canzoni, ne ho più di 100. Ti ho mandato un messaggio su WhatsApp. Ah, io non le pongo più. No, a me piace cantare, non mi piace, ci sono quelli che le mettono anche su coso, su... ma come si chiama? Vabbè, non mi viene adesso l'altro, non Facebook, ma l'altro. Instagram. Ti ho detto, leggi WhatsApp, ti ho mandato un messaggio. Eia, che è che ci fruscia? Ehi, che bello! Facciamo verso stazionario, vediamo un po'. Oh, mi sa di sì, sono salito un po' con umidità. Ci sei? Sì, già, sono qua. Aspetta che spiego una canzone. Hai visto ciò che ti ho detto, che ti ho scritto? No. E vai, cioè, ascoltalo. Perché a te lo dicevo, l'ha sentito lì. C'è cazzato. Ho capito già. Tu ascolta, quando io dicevo quella cosa, lui mi ha ascoltato, mi ha sentito, capito quello che ho detto. E allora, c'è qualcuno su questo canile? Già, sto facendo un preventivo a un amico, un telefono, là. Ehi, ehi, là. Andare. Ma, Lu, che cosa può essere che il telefono va a tratti? A volte mi sentono a tratti e mi manca la linea di colpo. E se ne va praticamente in pausa. Solo un attimino, già, aspetta. No, ma non mi hai mandato niente. Cosa, Lu? Hai detto che mi hai mandato qualcosa su WhatsApp. Eia. Mi hai mandato nulla, controllo. Capito già, così è così. Vabbè, ma c'è un detto che dice che sono nato per... C'è un detto che dice? Che sono nato, c'è qua, l'ha capito, non ti posso dire una se non mi piglia. Già, no, si può fare ecco che c'hai, non ti capisco. Cosa, non ho capito? Ecco che hai, non ti capisco molto bene, arriva un bel forte, non si capisce bene. Guarda adesso. Sto dicendo che non posso parlare, che c'è l'era a fianco, c'è mi picchia. Sì, vabbè, stiamo parlando, non è che... Stiamo parlando, ma comunque... Va bene così già, è tanto inutile stare... Se non va, non va, è così. Non va. No. Cosa ci vuoi fare, purtroppo? La vita è quella, no? Tanto io l'ho detto prima o poi, no? Cioè, ma tu, no? Allora, il discorso è questo, se io ti faccio un favore, te ne faccio mille, e poi tu a me mi dici una cosa che non mi devi dire, no, non esiste, no, già, adesso ho fatto così, io sono bravo e caro, però poi, no, domani vediamo un po'. Tanto lei mi ha cercato, mi ha scritto cosa volevo fare, niente dovevo fare, infatti poi gli ho scritto quando è verso le 2 così, che dovevo scendere a prendere mia roba da vestire perché dovevo uscire, tutta la roba ce l'ho lì, capito, scarpe, felpine, magliette, jeans e quant'altro. Se mette a posto tutto, eh. Una cosa che posso dire con l'antenna, no, ma anche perché lo stacco, una puttinuta, stacco il baracchino, lo porto a casa, non devo più avere in chili, poi ho finito, poi vabbè, a parte le devo portare via tutto. Sai cos'è, a volte si sentono trascurate magari, capito, quando tu parli alla radio si sente trascurata. Cosa ti dico, sai cosa dico, ma siete casi in un altro. Ah, ci sono i rimedi, no, ci sono i rimedi in tutto, non bisogna dare un po' di tempo per uno, un po' di tempo per l'altro, bisogna cercare di accontentare tutti. Io faccio così già, sto un po' lì, un po' là, capito, io ho anche la mia passione, cazzo, sto al telefono, mi rompo le palle e le fa al telefono, e sto lì perché, non esiste, lasciamo perdere. Se io me ne andavo a casa, una volta andavo via me ne andavo a casa, mica me ne andavo in giro per il circo, lì o cosa. Sì, andavo da amico, quello sì, ma molte volte non ci stavo andando. Zero, andavo completamente. Dopo prendere anche la mia libertà, non è che, capito. Vabbè, non ce ne può fregare di meno. Se sono rose fioriranno, diceva quello. Adesso si è trattato, ma magari già si mette a posto tutto. Quante volte? Ma non è così, no, già. Non è così. Non è così come dici tu. Mi dispiace dirtelo, ma è così. Io so di me, tu sei di te, no, è così. Tu non sei di me, io non so di te. Ma io sto parlando in generale, no? Non è che stia dicendo il tuo caso, è in generale. Bisogna trovare un punto d'accordo, discutere, trovare un punto d'accordo per andare d'accordo. Ma tanto non ti prendi d'accordo e poi diciamo devo punti a capo. È un casino già, non è così. Sicuro che non è troppo alta, questo lei non lo so, ma io sono sicuro che ha panni. Sicuro, no, tanto va a 30.000 per me, ma se faccio non me ne ha fuggi nulla, a me interessa se trovare un lavoro e sistemarmi come Dio comanda, e poi si vedrà, già arriva anche lì. Non essere tragico. Già, io alla fine non è che non so di chi si... Siccome io conosco il personaggio, gli ho detto che mi voleva lasciare la roba fuori e andare a prendermela. Io ho anche le chiavi di casa sua. Ah, cos'è? A Piazza di Doio tutto andava e venivo e facevo. Adesso che tu non ci sei, perché non c'è adesso, in questo momento non c'è. Grazie, come si dice? Adesso mi chiudi anche l'altro passante, ma funziona così, non ho mai toccato un ago a casa tua, ma è un ago, adesso mi metti l'altro passante perché non ci sei tu, io dovevo venire a prendermi la roba che mi serviva e poi me ne andavo, mica stavo lì. Vedi tu, tu sai, lasciate un bel anno insieme. Tanto 6 anni e più. Ma diciamo che ci sono stati, vabbè, in questi 6 anni non è che sono dei fiori, voi. Ma tutte le coppie ci sono gli altri massi, dai, tutte le coppie, così. Ma vedo che andavate abbastanza d'accordo, là. Non è così già, io già faccio quel che posso, Faccio quel che posso, cose ne ho fatto, Non mi sono stato con le mani in mano, purtroppo più di così non posso fare. Vabbè, poi non interessa alla fine. È andata così. Ma io lo lascio tranquillo, sono sempre nervoso lì, sempre nervoso, tranquillissimo qua, ci credi? Sempre nervoso, una volta che sono a casa mia, mi faccio i miei lavori, tutto qua, arrivavo lì, cazzo con i nervi, nervoso, sempre nervoso, cazzo. Fai riso, fai riso, mola quello, prendi quello, fai quello, cosa mi hai pigliato? Le donne lo sai cos'è? Prima sono dolci dolci, poi tolgono le unghie fuori, sono tutte così. Ma com'è? Casca male, molto male. Comunque per me una fucina, non ci dico vedere di niente, una un cazzo. Pensate la mia roba, ce n'è tanta, non so dove metterla, boh. E mai mi prendo quella più buona, è sta nuova, quella che non mi piace di essere la c'è il calzoletto giallo. Vabbè, vedi tu. Prima di fare cose affrettate, secondo me è meglio che magari ci parli. Poco da dire, c'è già, cosa devo parlare, cosa? Stanotte sempre facendo cerette insieme, tutte queste cose belle, non lo so, guarda i pro e i contro, là. Cosa fa? Si prende i soldi e va se mai si mangia quello che vuole, non è un problema mio. Se mangia da solo, con chi vuole lì può andare. Vabbè, allora parliamo qua, dai, che ti è scappata, devi parlarne qua. Ma mica c'ho problemi già, se la fotti. C'è un discorso che uno si comporta bene e poi la prende nel culo, scusando il termine. No, non va bene, no, non ci sto più, basta, finito. Vabbè. Come diceva quello, morto un papà che le va di un anno. Cosa c'è Luca? Cosa c'è? Sei fatirato, sì. Esatto, morto un papà se ne fa un anno. No, sono adirato, no. Non mi adiro io, no. Ma assolutamente. No, stavo solo parlando di voi. Capito già. Il discorso è che è così, ma è inutile che... Non va e boh, punto. Comunque domani vado a attacco tutto, quella normale, solo che mi devo trovare, adesso vediamo, organizzare qualcuno, adesso vediamo, forse lo chiedo, vabbè, al vicino di casa, se mi fa un favore. Insomma, piano piano dobbiamo mettere a rego, piano, un pezzo oggi, un pezzo domani. Magari io gioco a prima, ci affacciando la macchia, è meno male. Allora questo è un amico, se no sono Gabbini, se ho comprato una mano io, ciao anche a Gianni, buonasera. Ciao Fra. No, intanto piano piano me la porto via, non vogliamo con passaggi di nessuno, di lei soprattutto, no. Zero. Piano piano oggi domani vado a prendo un po' di buste della scuola, mi carico un po' di roba e me la porto su in tram, no? Cioè me la porto piano piano, non è che mi deve dare il tempo, perché se lei mi mette la roba fuori allora è fregata. Certo, già capito. Vabbè, e così che succede. No, a me mi c'è. Ho bruciato la frizione, già. Cazzo pubbliciame. Porca puttana, proprio adesso. Serve la macchina d'aria, l'altra non ce l'ho. È un casino. La frizione costa un po' farla, no? Cosa? Che costa un po' fare la frizione, Sì, più completa vuole. Ci vuole il disco, spingi il disco e volano. Quindi sarà una bocca minimo di 500-600 euro. Vabbè, una volta che la fai, farò così, c'è tutto quanto la... il kit. Vabbè, anche gli anni sui, magari dopo tanti anni, è già una cosa normale che si sia consumata. Sì, non viene più, mi era uso, ho dato le mani. Infatti mi ha detto non fare strada, perché no, se no il fascio cambio. E allora, niente. Questo è un carissimo amico, almeno un paio di giorni sicuramente, lunedì o martedì e mercoledì, adesso vediamo. Va bene, dai ragazzi, sono rientrato adesso, vi lascio, mi metto in pigiamino, esci dal bigliare un buonasera, tutto bene voi, sì? Sì, grazie a Dio, sì, io parlo bene, Luca un po' meno, ma... Io ti vuoi tranquillo, no, assolutamente, va. Come si chiama? Ah, Instagram, così, Cazzo, non mi ha dubbio, cosa è successo? Ehi, dai, tranquillo, non l'abbiamo avuto, no? Evidentemente vanno alle balle piene. Bisogna andare avanti, come hai detto, molto un papà ce ne fa un altro. Beh ragazzi, che mi cambio, se ci siete a dopo, se no vi saluto a tutti e ci sentiamo, ciao. Ciao, Fla. E così. Adesso vedi, il pappa tra un po' cambieranno, come devo cambiare, come si chiama, capo dello Stato. Hai già ciambato. Cosa? Hai già ciambato tu. E allora? La fotti di un presidente del pubblico che aveva fatto nuovo. Ma fate un babbo nuovo, allora te la fotti. Pure Antonio si è ciambato di mutande, ciambato di mutande, no? Ah, già. Hai già detto pure Antonio si è ciambato di mutande. Antonio Bobo. Ciambato di mutande, no? Ah. Bene, merda, dai, fatemi cambiare, che mi ci stiamo un attimino, ciao, ciao, che è un casino. Questa è una ciabatta, che su me è una ciabatta, una pezza di canna. Ciabattone? Allora, ti vuole un pigiama, e ciabatti, e ti vuole il televisore. Ok. Avanti, Lu. Chiama di positivo, che ne so, se ne stroppo da mangiare a Dea. Ma già non andiamo qua, dici, a Franchi va a finire di nascoli. Adesso sapore attiva l'importà. Vabbè, oggi come ci non devo fogliare, domani domani se vediamo, la prossima settimana. Se mangiamo a questi punti non posso fare un cacchio, capito? È un casino. Adesso voglio mangiare, ma che cosa la posso mangiare? Non fa. Io quando esco mangio, quando mi viene fame prendo una pizza, un panino, se non è un panino mi prendo, come si chiama? Il kebab, ogni tanto lo mangio. Kebab Marrakech. Ah, io non ne mangio più, da casa ci uso su internet, tutte le tue cariche si muoiono, non ne mangio più che baba. Vabbè, tanto. Tu muori tu, non muori di rampi. Oh, via, per carità. Prova ridate. Che caso, non te me lo offendi, ci siamo adesso, lavora papà, te. Mettete lo gabbo, meggia, tu che ne va un'intelligenza, dove la pallina? E c'è la pallina, va, portami la pallina, va, dove? Prendi la pallina, va, portala a Gianni, va. Sei intelligente con questo cane, ho un anno e 7 mesi. Dammi la pallina, porta acqua. Obbediente, no? Sì, abbastanza. Cioè, quando voglio triccare, magari li seguo, però io lo... la sgrido e torno indietro. No, già è abbastanza... Che molte volte mai la lascio fuori da mamma, lei mi chiama, usa la porta perché vuole entrare. Guarda, sto facendo una cosa, mi sta in mezzo ai piedi, come adesso. Ci vuole in mezzo ai piedi, non la voglio. E vabbè. Io a casa ce l'ho vicino, la sta accarezzando e mi lecca la mano. Lui è un brodo di giugio. Anche lì è qua. Dammi la pallina, va, portami la pallina. Non salire, non voglio, no, no, tu non hai detto non ci sali, no, no, no, no, no, tu sei nel divano, digiuno, no, no, no, no, no, saluta Gianni, fammi le carte, saluta Gianni, dai, dai, dai, saluta Gianni, saluta Gianni, saluta. Uia, senza Gianni, uia, uia. Non ce la fai a salire se cicciona. Uia. Ma non assomiglia molto a Luna, lo sai? No, Luna, Luna. Luna c'è, basta, vai a cuccia, vai, vai, prendi la pallina, portami acqua. Se no mi sta addosso non se ne va più. Io me lo ricordo che a Luna te la portavi in moto pure. Adesso morto non ne ho più, ma adesso vediamo, questa estate secondo come gira. Io trovo qualcosa, me la compro. Ma venduta te la? Sì, lo devi sì. Peccato. L'hai fatta tutta nuovo? Lo so già, se vuoi fa. Sì, vabbè. Già si può rinnovare tutto. Anche a me mi sta prendendo lo scrivito di riprendermela la moto, ma poi ci ho ripensato. Dopo c'ho tutti i dolori, se vado in moto guarda. Vabbè, d'estate ci sta, d'inverno no, ma anche no, no, no, no. Sai che poi secondo me molto prendi perché te la metto, un casino, la gente è pure di gabbo, io metto la buona in fuoco, è un casino già, però adesso se parto di quell'idea non me la comprerò mai, però adesso vediamo. Ma io facevo così, qualche volta la usavo d'inverno, poi io ho visto che la usavo molto poco, allora mi bloccavo l'assicurazione e la riprendevo l'estate. E l'assicurazione di un anno mi durava 2 anni, capito? era una cosa, la coprivo bene col telone, tutto legato bene con gli elastici, con i cordoni elastici, in modo che non volasse, ben legato. L'unica cosa che succedeva è che se andavano legati sotto e facevano la pipì nel pedale, che con fiato, ogni volta che la via, però che agonini. Ma di che cosa? Non capisco. Qui siamo alla moto. E allora, i gatti che ci sono nel cortile, perché c'è una donna che li dava a mangiare, li ha tirati tutti i gatti, no? I gatti piciavano per tutto. Poi c'era poche fine aguzza, l'urina deragliata, ma per carità. Per carità, per carità, sono stato, adesso mi sono un po' riposato. C'ho anche fame. Allora, ma c'è questo, si è affacciato. Sono anche stanco. Ah, ecco, aspetta un attimino che questo fogliettino mi serve. E poi ci sono delle password. Poi c'è, qua c'è una connessione normale MP4. Carta rossa, giallo, questo qua. Cosa stai controllando? È un fogliettino che mi scrivo tutto. Aspetta un attimo già. Prego per un salutino veloce. Avanti. E buonasera. Ma lo sapete che sono da ieri che accendo il baracchino cercando, chiamando, non c'era nessuno nel piede, tutto qua. E poi mi sono accorto adesso che c'avevo il piede della testa attaccato sulla finestra. Che sinistra. Non ho capito chi c'è con buonasera, doppio rullo da questa parte. Stai dicendo un basso di radio, non capisco il perché. Aspetta, ecco. Tutto comunque. Sta facendo malissimo. Giuseppe, sta facendo malissimo. Contatti il microfono. Adesso? No, c'è tutto flusciato, sì. Sono stazionari, Giuseppe, sicuramente, perché quando l'amplificato ti fa fischiare. Aspetta che controllo. Infatti, tutto lo facendo bene. Non è chiaro, ecco. L'altro giorno stavo facendo benissimo. Era quasi 9, la radio era bella 5. E adesso sto facendo bene il segnale 9, però la radio è bassa, la sento strana, tutta come se fosse un altro canale. Vedi, tu con la donna lì non la devi più usare, se ti fa bruciare il barattino, ti brucia i finali, occhio. Con la donna lì c'è di buttare via e prendertene un'altra come si deve, almeno esci bene e non sbibbesci più. Ma la Ferrari non ne ho, ma le ho controllate. Lo so, ma non... tu che cosa c'è, che scritte c'hai nel rose? Metto set e rose, così è. No, c'ho col SWR ed SRS. Tu praticamente devi mettere fondo scala prima e poi mettere sul rose e vedere quanti stazionari c'hai. E secondo me tu stazionario ne hai. E ne hai come se ne hai, perché ti fa uscire tutto saturo, boh, strano, capito? Guarda, te lo faccio in diretta, metto sul call, metto a fondo scala, controllo i stazionari, uno e due, anzi due c'è stazionario, poi due e uno e mezzo. Oh, io non ti ascolto bene, non lo so fui Luca, tu come l'ascolti? Come l'ascolti tu, l'ascolto io uguale. Praticamente sembra, non dico spostato di frequenza, boh, sembra... Io stavo uscendo ieri, la mattina, non so quando è entrato e usciva benissimo. E adesso? Non è che c'è la batteria scaricata del microfono, no? È bassa, bassa di radio, adesso esce più chiaro di radio, ma è bassa, bassa, bassa. E adesso? Ascolta, controlla il Mike D, guarda a vedere il Mike D se non l'ha abbassato senza volerlo. No, mi sto ascoltando di frequenza, lì devi sentire meglio. No, non ti sento meglio. Ti sento sempre così, anzi forse è peggiorata. Devi andare su 27075, la frequenza è quella del canale 10. Caramba, ma sul 4005 non ne ho frequenza di mezzo qua. Ma è strano, perché io riuscivo un bel forte di radio, la radio era proprio bella potente, ma va bene, ogni tanto va bene, poi si rovinava per l'antenna, la rimettevi apposta, eccetera, però andava meglio. Boh, non lo so cosa dirti, secondo me è un tema. Se ti fai un diplomo riesci a capire se è quello o no. Vabbè dai, poi io non lo so. Va bene ragazzi, vi saluto, dai. Faccio, vado in Berricci, in ascolto, magari ci siamo più tardi, dai. Ehi, a me dispiace Giuseppe, ma io ti dico le cose come sono, non è che se ci muove te lo dico. Controlla, vedere un po' lì il fine corsa della parrucca, controlla se è tutto posizionato bene. Guarda, è posto, adesso mi sto spostando di frequenza, ma è centrato. Sicuramente l'antenna, dai, ho questo lineare che sta facendo... Prova a uscire senza lineare. Aspetta che mi ricordano. Allora, aspetta, mi sto accordando. Un secondo. Ecco qua. Adesso 1-1 di stazione. Adesso sei senza. Adesso sono senza, sì. E la voce è più chiara, la voce è più chiara, ma la radio è sempre bassa, non capisco perché. Prova. 1, 2, 3. È più accettabile, ma non è come forte come ieri, l'amplificatore non si sente, mi capisci? Esatto, oh, ma magari sta caricando la batteria del microfono. E può darsi che sia anche quello. Può essere tutto sato, comunque sta scendendo male. Vabbè dai Giuseppe, al limite se riesci a sistemarti richiama, dai. Va bene, capo ragazzi, mille, ciao, avanti tu. Ma secondo me è il microfono, perché se non ha la stazione aria, come dice, è un problema di microfono. Sì, ma probabilmente anche la batteria del microfono che potrebbe essere scarica, perché l'altra volta ce l'avevo scarica io, mi facevo uscire tutto cupo, mi dicevano che ero cupo, che stavo, ma non è mai uscito cupo con questo microfono, ho cambiato la batteria, ce la lascio in due. Ehi, buonasera, sono Andrea. Ehi, anche sentivo sguscio piccolo. Ehi, devo essere la batteria del microfono. La prima cosa da fare è cambiare la batteria. Poi ho la misura, se c'è un tester, misura la batteria. Quanto io ce l'avevo a 3, la volta che ci occupo, figura, invece che 9 era 3. Ehi, capo, può essere anche quello, la prima cosa. Oggi, qual è che ti fa la musulata senza eco? E cosa? Qual è che ti sento una volta senza eco? Guarda, così bene va. Cazzo, mamma mia, va. Allora, è bello fare QSO con la modulazione normale, anche se la mia mano è troppo alta, la posso anche abbassare. Ma chi sei con tu? È la mia prerogativa uscire con l'eco, io sono sempre uscito con l'eco. Sempre ho avuto, ma non un pelino, proprio appena, sempre un pochino l'ho messo. E vabbè, è questione di gusti, dai. Avanti, Andrea. Meno male che parlate di eco voi, non c'è neanche gli occhi per piangere. Io esco come esco, è un pulsante ciò qui. C'è scritto eco. Stavo scherzando. Prova a schiacciare. Qua è questo pulsante che ho io qua. Il PTT. Non ho capito, c'è l'eco o non c'è l'eco dell'apparato? Ma non ce l'ha, stavo scherzando, ho detto, beati voi che parlate di eco, io c'ho solo un pulsante qua da schiacciare, che è il PTT. Ah, ho capito che avevi un pulsante con l'eco dell'apparato, capito? No, mi sono espresso male. No, io non c'ho nulla, sono proprio essenziale. Cavagava, sì, vabbè. Già va bene, la radio è chiara, esce bene, va. Poi con l'antenna va bene, con l'antenna... per essere un antenino così va bene. Cappa, stamattina sono passato da Fusaro, mi sono preso gli ultimi 7 metri e mezzo di cavo e qualche PL, perché mi è arrivata una ciabattina che voglio provare domani o dopodomani. Se vuoi consiglio, prova il PL se avvitalo, perché quelli che c'ha Fusaro non avvitano un cavo, ho fatto 6 spezzoni io per avere il ricambio, sono andato a avvitare e non avvitano. E sono PL che non si vede a nulla. La potevate dire ieri, però se ci trovo va. Vabbè, ti rassillare, cos'hai preso il 58, quello fine? Solo quello c'erano solo quello 7 metri e mezzo. Vabbè, stavolta ti rassillare, una volta che fai lo spezzone controlla il tester. Cappa, ma quando lo taglio il cavo, devo usare delle misure per avere prima dell'antenna? Ci sono delle misure fisse oppure va bene qualsiasi lunghezza? Di 11 sempre. Cosa già? E già abbiamo assieme. Potrebbe avere multipli di 11. 11, 22, capito? Quindi anche sotto multipli, tipo 11 diviso 2, lo posso fare anche? Se, allora, ma considerare che la frequenza è 11 metri, devi andare di 11 in 11. Ma siccome ne ho 7 e mezzo, devo fare mezzo.